Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. L'appuntamento di oggi è con la riproposizione della vera e propria Lectio Magistralis che il professor Carlo Vittori tenne a questi microfoni lo scorso 10 novembre. Vittori, per quei pochi che nel mondo dello sport non fosse la conoscenza della sua dimensione, è l'uomo che per esempio, ha predisposto e poi curato la carriera straordinaria di Pietro Mennea, che ha riabilitato Baggio dopo il primo grave infortunio al ginocchio del 1987, e alcune altre amenità. Stiamo comunque parlando di un luminare dell'allenamento e della preparazione fisica, dell'atletica leggera in particolare, ma anche del calcio, che ci ha fornito la sua versione dei fatti su un argomento di grande attualità, allora come oggi, come ieri e temo come domani, e cioè gli infortuni sempre più numerosi e sempre più gravi che hanno falcidiato e continuano a tormentare il calcio internazionale, italiano in particolare, e che si sono manifestati in maniera particolarmente cruenta nei primi 3 mesi di campionato. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a lei. Grazie. Grazie a lei. Dunque, io le chiedo di immaginarsi al capezzale di questo calcio malato di infortunistica, in tutte le forme che abbiamo imparato a conoscere. Qual è la prima diagnosi per l'appunto di un luminare come lei? Beh, io la ringrazio, però io non mi sento luminare. Io sono uno che ha fatto la cosa che gli piaceva e che riguarda assolutamente la conoscenza il più possibile verosimile di questo fenomeno che purtroppo viene da molti maltrattato e che si definisce allenamento. Vede, il peccato originale è questo. In Italia sussiste da tanti anni una distorsione si può racchiudere in questo pensiero. Hanno fatto diventare questa attività di allenamento un'attività troppo routinaria, ripetitiva, pedissequamente ripetitiva, sì. Perché si snoda su comportamenti uguali, pedissequamente uguali, troppo uguali, e naturalmente per una disciplina dove l'atleta deve inventare, creare, avere questa grande capacità di innovare i suoi comportamenti, di crearli nel momento per rispettare i momenti topici del gioco e tutto questo. Se la mente è obnubilata, offuscata da un'attività tediosa, da travè, no? Bella questa. Sì, da travè, da impiegato del catasto, mi scusino gli impiegati del catasto, da un impiegato di un nostro ministero, e fanno sempre cose troppo uguali. Ora io potrei sottolineargliene a decine, ma quello che conta è questo: il fatto che si sia distorta anche il concetto di programmazione. La programmazione è vero che deve essere costituita da una serie di fatti che vengono precostituiti, no? Ma debbono essere soltanto pensati sotto forma di strategia, non di tattica pedissequa, cioè fatti diciamo da ripetere giornalmente. Tutto questo è una distorsione pazzesca. Il calciatore che viene aggredito da un allenamento fisico che si ripete settimanalmente sempre in maniera uguale. No? Oltretutto distorcendo il significato vero della

assolutamente naturali, per cui uno che fa le cose per forza alla fine si fa male, allunga una gamba di troppo per arrivarci, perché altrimenti non ci arriverebbe, si fa male, cerca di scattare velocemente ma è in ritardo perché l'anticipo dipende dalla freschezza neuroormonale e quindi si fa male, cerca di correre veloce e si stira. A questi ci aggiungiamo i danni degli scontri e degli incontri, che sono sempre più violenti a misura che diminuisce questa attentività, no? Questa capacità di controllo da parte del sistema nervoso obnubilato delle parti meccaniche o gli effettori, che sono i muscoli. Noi invece, costoro invece allenano i muscoli, no, i muscoli sono l'effetto. Le cause sono il sistema nervoso, la motivazione psichica e l'attività ormonale, che deve essere sollecitata a livelli altissimi. Beh, come avrete sentito, insomma, la passione e l'intensità del professore montava, no? Progressivamente. Poi questi non più giovanissimi luminari sono dei diesel che hanno bisogno di scaldare il motore e poi non si fermano più. Tocca a noi fermarci per poco, giusto per sentire come va sulle strade. Torniamo in compagnia del professor Carlo Vittori ad ascoltare la seconda parte della conversazione con lui andata in onda il 10 novembre. Io adesso le vorrei proporre, se è d'accordo, alcune delle spiegazioni che medici sportivi, colleghi preparatori, allenatori in genere trovano per spiegare, no, questa somma di infortuni, soprattutto quelli muscolari, che sono insomma, apparentemente più inspiegabili. Le faccio un esempio. Io quando vedo che la società, la squadra leader oggi in Italia e da qualche anno, e cioè l'Inter, accusa nelle ultime 3-4 partite una serie di guai muscolari lo dico con rispetto, anche se in maniera un po' pittoresca, da partite da scapoli ammogliati, nel senso che a un certo punto si fermano perché hanno sentito tirare di dietro, come può capitare a me o come capitava a me quando si giocava con gli amici. Ma cosa significa una cosa di questo genere? Significano tante cose, vede. Non vorrei ridurre tutto a soldoni, ma per farci capire da tutti, poi mi creda, vede, la scientificizzazione di questa attività è data da una serie di esperienze di 60 anni. Sì. Per cui bisognerebbe essere acefali, non accorgersi che in 60 anni sono stati commessi degli errori. Sono stati commessi e tanti, ma il piacere di fare questa attività ci ha spinto a correggerli e ad avvicinarci il più possibile al verosimile di quello che accade. Il funzionamento della macchina umana che dà prestazioni di fuori dall'ordinario non credo sia ancora conosciuta appieno, mi creda, non per carità, per non mortificare, ci mancherebbe altro, la scienza alla quale io faccio tanto di cappello. Ma vede, se ci rifacciamo a delle ricerche di scienziati, di uomini della scienza, sull'attività fisica, sa cosa posso dirle io? Che abbiamo toccato con mano che se quella cosa è sacrosantamente vera come funzionamento di un'attività, di una biofisiologia di base, quando si tratta del campione che deve allenarsi per 10 anni, quella cosa fa effetto il primo anno, poi il secondo un po' di meno, il terzo non fa più effetto, bisogna cambiare. Questo la scienza non può dircelo perché non ha il tempo di una osservazione orizzontale per 10 anni. Certo. Noi invece sì, e allora ci rendiamo conto che se quel metodo, che non è un metodo, perché il metodo è quello che dà risultati sempre, poiché ha nel suo ambito tutte le nozioni per cambiare, per sviluppare una variazione dei suoi componenti intimi,

Tra i tanti messaggi e le lettere che accompagnarono e seguirono soprattutto all'intervento di Vittori, segnalo e ricordo questa, ricevuta con piacere da Paolo Zuccarelli da Teramo. Ho praticato atletica leggera per oltre 10 anni, con un modesto 11,4 sui 100 metri, la faccia del modesto. Io ho avuto la fortuna di conoscere Vittori ad una gara ad Ascoli. L'allenatore che mi ha seguito per tutto questo tempo è di Giulianova e fu allievo del maestro di Ascoli negli anni 60 alla Scuola dello Sport di Roma. Nei primi anni della mia attività agonistica non potevo rendermi conto appieno della sua bravura perché ero troppo giovane, dai 13 ai 19 anni, e non avevo termini di paragone. Ma quando sono andato a Bologna a studiare non ho trovato tecnici dello stesso livello, né sul piano tecnico né su quello della programmazione dell'allenamento. E così, seppur a distanza, ripresi a farmi seguire da lui e ancora adesso custodisco le tabelle di allenamento gelosamente. Mi ricordo le 3 fasi successive di preparazione: la prima durava 2 mesi, novembre e dicembre, ed era a sua volta suddivisa in 3 settimane di carico e 1 di scarico, nelle quali si lavorava sulla resistenza generale, su quella più aerobica, eccetera, eccetera. La seconda fase era quella preagonistica e andava da gennaio ad aprile. In questa fase si diminuivano le distanze ma si aumentava il ritmo, sia in pista che in palestra, e a questo punto, messa la benzina, iniziava la stagione agonistica vera e propria, e come diceva Vittori si procedeva al mantenimento della forma limitandoci a qualche richiamo ad agosto quando c'erano meno gare. Era un allenamento molto variegato e per nulla da impiegati del catasto. I tempi di percorrenza delle distanze, i chilogrammi di pesi da sollevare, l'ordine degli esercizi erano modulati singolarmente per ogni atleta. Il mio allenatore ricordava di Vittori ovviamente l'assoluta competenza, così come il carattere burbero. I programmi che sottoponeva ai suoi atleti erano molto intensi e si intensificavano di anno in anno. Tempo fa, un articolo apparso sul Messaggero su Mennea, ricordo ancora, continua e conclude Paolo Zuccarelli, doveva correre 24 volte i 60 metri e 10 volte i 200. Il tempo di recupero lo trascorreva con il custodio in uno sgabuzzino. All'ultimo 200 non ce la faceva più, chiamò Vittori e gli chiese se poteva evitare di farlo, trattandosi eccezionalmente della vigilia di Natale. Vittori gli rispose: va bene, ma ricordati che oggi non hai concluso l'allenamento. Ecco, anche questo in tutta la sua determinazione e, se vogliamo, in questi eccessi di severità, era Carlo Vittori. A questo punto riparte la conversazione con il professor Carlo Vittori. Vi ricordo lo storico preparatore ascolano di Pietro Mennea, un luminare sia dell'atletica leggera che poi sia pure in misura minore del calcio, che al capezzale di A Tempo di Sport lo scorso 10 novembre diede la sua dotta versione sulla valanga di infortuni che hanno caratterizzato questa prima parte del nostro campionato. I preparatori atletici, anche i medici, ma in particolare i preparatori atletici di squadre di calcio, sostengono che questi infortuni sono aumentati in maniera esponenziale a causa di un fattore innanzitutto, e cioè la mancata preparazione estiva, la sempre più breve preparazione estiva, quindi il mancato, come dire, pieno di benzina prima di iniziare l'attività vera stagionale, sostituita questa preparazione, come dire, calma e progressiva di un tempo, sostituita da troppi viaggi, troppa frenesia, amichevoli immediate con l'obbligo di prestazione quando ancora non hai immagazzinato energie e quando ancora il tuo corpo non è pronto per grandi sforzi. E però sei già in, si diceva una volta in Eurovisione, qui sei già sul satellite e te la vedi con squadre di prima grandezza e conta già anche il risultato dopo 10 giorni che hai cominciato. Come si ritrova davanti a questo concetto? Io ho scritto queste cose, mi ricordo, sul Nuovo Calcio, perché mi fu chiesto dal direttore responsabile una risposta a questi allenatori. Io posso benissimo impostare una preparazione di 60 giorni rispettando tutti i sabati e le domeniche per qualsiasi tipo di partita o anche il mercoledì, ma una volta fatto questo e riempito il serbatoio, mi creda, l'atleta che si allena così non è che non gioca la domenica, gioca molto meglio dello stesso atleta che viene allenato male, anzi. Non so se è chiaro. Sì.

una fraseologia completamente diversa da qualsiasi altro allenatore, forse questo sì. Molti giornalisti non l'hanno captata. Ha una prosa, una costruzione delle frasi originali per un allenatore di calcio italiano, assolutamente sì. Originale. E poi quando mi fu detto da amici che vivono nell'Inter che questo prediligeva l'allenamento col pallone, io dissi: beh, è beato lui che ha capito. L'unica cosa è una vedere quanto sia possibile con il solo pallone creare quell'autonomia di funzionamento del sistema nervoso centrale, cioè allungare l'autonomia del sistema nervoso, perché questa è il presupposto dell'allenamento del calciatore. Puntata monografica, vi avevo detto, anche perché è talmente variegata la dialettica di Carlo Vittori che non era davvero il caso di, come dire, di rischiare di disperderla. L'ultima parte che andiamo a riascoltare. Senta, lei supponiamo che insomma dopo questa conversazione, ma anche indipendentemente da questa, perché insomma stiamo parlando sempre del professor Carlo Vittori, un presidente di società le chiede di fargli o la coinvolge, insomma comunque le fa la seguente domanda: ma lei oggi in una squadra di calcio di alto livello in cui stiamo parlando come minimo di 25 titolari o comunque di 25 giocatori sempre a disposizione, quindi con alternanze di ruoli, con la necessità di allenare, immagino, qualcuno, cioè, anzi ciascuno in maniera diversa dall'altra, perché diversi sono gli impegni, diversi sono le necessità di farli muovere, di tenerli sempre al top della condizione. Lei come suddivide le responsabilità di gestione fisica tra le tre componenti, e cioè il tecnico, l'allenatore, il preparatore atletico e il medico? In che percentuali le divide a grandi linee? Oddio, questa è una domanda che mi trova spiazzato, perché non ho mai avuto queste possibilità. Ma vede, io le dico una cosa, io ricordo su questo argomento, non esco fuori dalla sua domanda che è pertinente, mi permetta, non è un plagio, intelligente. Io ricordo un grande dottore, il dottore dell'Inter degli anni 70. Quarenghi. Perfetto, il dottor Quarenghi di San Pellegrino. Sì, sì, sì. Lo ricordo perché ho avuto scambi con lui interessantissimi. Lui fece un convegno a Milano e mi chiamò a Milano e io dico ben venga il preparatore, però la cosa importante è che il tecnico di calcio ci capisca di ciò che fa il preparatore e che il preparatore si sia fatto almeno una immagine non fantomatica del gioco del calcio, ma ci abbia una configurazione di questo gioco di grande abilità, di grande destrezza, che discute, sul quale ha discusso con il preparatore tecnico. Dico, voi volete prevedere queste due figure? Non è facile metterli insieme. Se poi prendiamo anche il dottore diventa molto difficile. Però chi è che deve poi coagulare il tutto? Deve essere il tecnico. Sì. Deve essere il tecnico. Il tecnico, come dire, del calcio, cioè l'allenatore del calcio. E io portai un esempio: io sto allenando tre saltatori in alto, Azzaro, Kroos e Schivo. Dico, sarebbe bello che io chiamassi per allenare le diverse espressioni di forza, chiamassi un allenatore della forza e io faccio la tecnica del salto. Questa è follia, perché l'allenatore che fa la forza per il salto in alto deve sapere quali sono le espressioni di forza e deve conoscere a menadito la variabilità nello sviluppo del training di queste metodologie per servire il futuro, oltretutto, non soltanto il presente, perché l'atleta salta e lo fa il record anche dopo 9 mesi, no? Certo. Ecco. Dice, io mi trovo veramente sconcertato. Io devo saper fare tutto insieme, perché non si può dividere. Capisco però la vostra esigenza, ma non si può assolutamente tenere all'oscuro il preparatore tecnico di tante cose. Allora le dirò, io sono stato in Spagna 9 anni, anzi 8 anni, ho collaborato con la Catalogna, no? E le dico che ho parlato con moltissimi allenatori, sia della Catalogna, sia di Madrid, sia della Corugna, perché questi erano i 3 luoghi dove mi spostavano i catalani per fare conferenze sul calcio. Sul calcio. Ma lì il corso di calcio si fa all'università. Io capisco Ranieri che dice, ma questo in Spagna non succede, ma lo so benissimo, io sono andato pochi mesi fa a prendere un premio dai catalani e ho incontrato il preparatore del Barcellona che ha iniziato in quegli anni, no, ascoltando le discussioni che si facevano insieme. Mi ha invitato a pranzo, mi ha ringraziato ancora, il professor Seirullo, questo è il preparatore del Barcellona. Lo può contattare anche domani se dico menzogne. Questi qui hanno tutta un'altra concezione. Ma gli stadi spagnoli non hanno le balaustre in cemento armato che sembrano delle linee Maginolo, questo lo sanno tutti. Questo già avrà un significato per chiarire quello che ha detto il presidente, ma qui la richiesta del pubblico, la richiesta del tifoso, no, crea stress. Sicuramente che crea stress, ma questo in Spagna non succede, ma questo non succede nemmeno in Scozia. Io ho avuto un mio allievo che è stato in Scozia ad allenare, è ritornato ad Ascoli e mi ha detto, professore, ma quella è un'altra terra, ma quella è un'altra cosa. Ho l'impressione anch'io, eh? Un'altra cosa, io sto a contatto con questi ragazzi perché mi piace sentire che cosa si fa all'estero. Ripeto, io sono andato all'università a fare lezioni agli allenatori di calcio, gliel'ho detto, Catalogna, Madrid e La Corugna. Sono tre. Erano poi le 3 scuole. Ecco, era lì che volevo arrivare. Erano le 3 scuole che in quel momento. Funzionavano al meglio. Professore, grazie. La ringrazio. Sono io che ringrazio tantissimo lei. È stato molto gentile e ho avuto molto piacere. Per chiudere la rilettura di questa puntata, credo che una delle lettere più interessanti che ho ricevuto, non solo a quel proposito, ma nel 2010 in assoluto, mi arrivò da Paolo Varvaro, che mi scrisse: le trasmetto una interessante anticipazione delle tesi di Vittorio e di tanti altri uomini di atletica leggera e di preparazione di calcio, un'anticipazione che ho trovato nel Gioco del Calcio, un volume di Mario Zappa, 1946. Mario Zappa è una firma storica del giornalismo sportivo italiano di quell'epoca. Pensate, in 1946, le segnalo in particolare un passaggio sull'impegno mentale che richiede il gioco del calcio, a prescindere dall'evoluzione di schemi di velocità agonistica, come in questo brano che riporto di seguito. Allora, Mario Zappa, 1946, scriveva: in conclusione, come si è detto, non sono indispensabili doti eccezionali per divenire calciatori, ma in compenso il calciatore deve possedere un'armonia di doti, quasi tutte acquisibili con l'esercizio. Soprattutto occorre, in relazione al fatto che egli agisce come parte di un tutto organico ed in contrasto con l'azione svolta dagli avversari, che il calciatore sorregga e temperi costantemente il suo sforzo fisico col controllo costante del cervello. Apro una parentesi, esattamente quello che ha sostenuto sino a poco fa il professor Vittori. Chiudo la parentesi. Ogni gesto del calciatore in gara è frutto non già dell'istinto, ma di una rapida percezione della situazione, di un pronto giudizio su quello che occorre fare, di una fulminea decisione e di un'altrettanto fulminea esecuzione. Nel calciatore i centri nervosi lavorano almeno quanto i muscoli e perciò questo sport è particolarmente affaticante e l'ora e mezza di partita costituisce una prova assai più dura di altri cimenti sportivi che richiedono ore e ore di lavoro muscolare, ma non impegnano altrettanto a fondo e con la stessa continuità le facoltà intelligenti dell'atleta. Quando alla fine di una gara vedete dei giocatori stanchi e nervosi e perfino eccitati o irascibili, non pensate sia soltanto la fatica delle gambe o la stanchezza degli organi respiratori a renderli tali. È soprattutto il dispendio di energia volitiva che li ha svuotati o che ha tolto loro gran parte della capacità di controllo sui loro atteggiamenti. Ripeto, è un brano di Mario Zappa nel suo volume Il gioco del calcio, anno 1946, e credo che Renzo Arbore, con il suo celeberrimo slogan, avrebbe commentato: meditate, gente, meditate. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Buon pomeriggio a tutti.